sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Abbiamo 16 anni, stessa scuola. Mi è stata indifferente per 5 anni, ma negli ultimi mesi ha scalato la mia classifica delle belle da sognare la notte. Ha superato anche Gilda e sua sorella. Sono Giulio, vivo a Modena, sono sposato con Jennifer da oltre 12 anni e ho 3 figli, Samuele, Anna e Sara e un grande Alano. Di recente mi è capitato di vedere un film, un piccolo cortometraggio, o meglio, un cortometraggio dura di meno, un piccolo film, dura quasi 13 minuti, che però per il web sono un'infinità, no? C'è chi dice che la gente guarda una roba su YouTube massimo un minuto e mezzo, invece questo me lo sono puppato tutto, 13 minuti interi, si chiama Long Branch, è una piccolissima storia di due ragazzi giovani che si incontrano ad una festa, in un attimo si attaccano l'uno con l'altro, cominciano a baciarsi e lei gli dice espressamente: senti, ho voglia di fare solo sesso. Dove andiamo? Da te o da me? Da me c'è troppa gente, dice lei. E lui dice: va bene, andiamo a casa mia. Lui non le dice che semplicemente sta in un posto che è veramente a casa del diavolo. Ci mettono 2 ore e mezza a raggiungere. Sta a Long Branch, che è un posto fuori Toronto, è ambientato a Toronto. E di fatto è un paesino fuori Toronto. Devono prendere una metropolitana, un autobus, un altro treno e poi la bicicletta. E di fatto questo viaggio è come se fosse in piccolo il viaggio di una vita. Questi due prima sono appassionatissimi, poi lentamente sul treno cominciano ad annoiarsi. Lui cerca di essere romantico, lei non vuole, quando sono in bicicletta di fatto già stanno litigando e poi il finale è a suo modo a sorpresa. L'ho appena caricato sul nostro profilo Facebook, voi siete qui Radio 24, se volete andatevelo a vedere, prendetevi 13 minuti e 40 secondi, Long Branch, è un film fatto molto molto bene. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16 e 10 minuti in punto, oggi è una splendida giornata a Milano, c'è un sole che sembra di stare a Milano col sole in autunno, l'aria è freschissima, cercavo un posto fighissimo col sole, ma devo dire che anche Milano col sole non è niente male, venite a farvi un giro a Milano quando c'è il sole, che vi assicuro che è sorprendente. Vi ho raccontato, no, Bonini mi chiede se mi paga l'Expo, non è che Milano adesso è solo Expo, adesso Milano è anche qualcosa d'altro, oltre a essere Radio 24, il sole 24 ore. Dicevamo, la storia che vi ho raccontato in apertura, Long Branch si chiama, la trovate sul nostro profilo Facebook, è come se fosse in piccolo la storia che vi racconto oggi, che è la storia di Giulio, per il quale abbiamo fatto uno strappo, perché sapete che noi cerchiamo sempre un episodio, no? È una cosa che si svolge nell'arco di poco tempo, un inizio, uno sviluppo e una fine. Lui invece ci dà un arco molto ampio, è l'arco della vita, di una vita di coppia, di due ragazzi che si incontrano molto molto giovani, si fanno una piccola promessa, la storia va bene, va male, e lui ci racconta attraverso dei flash, e quindi la storia è una storia che racconta secondo me non solo di loro ma di molte altre persone. Al 349-238-6666 però io vorrei chiedervi di fare una riflessione, prendetevi 5 secondi, secondo me ve ne bastano, forse 3 ve ne bastano. Pensate al vostro compagno, a vostro marito, a vostra moglie, al vostro fidanzato e cercate di capire qual è la cosa che quando lo guardate, con tenerezza ma anche no, c'è qualcosa che riconoscete e vi dite: ah, ecco perché sto con lui, ecco perché sto con lei. 349-238-6666. Questa è la storia di Giulio ed è la storia di Jennifer. Primo flash, 1992. Piove un po', o forse molto. 2 impermeabili di quelle di una volta, sottili, color giallo fosforescente e viola, il suo, il mio non ricordo. Abbiamo 16 anni, stessa scuola, stessa classe delle medie. Mi è stata indifferente per 5 anni, ma negli ultimi mesi ha scalato la mia personale classifica delle belle da sognare la notte. Ha superato Gilda e sua sorella per distanza troppo lontana, Federica per il carattere, Silvia perché non la vedo mai e la Ludo è troppo piccola. Bene, adesso siamo lì. Con queste goccioline sulle sue lentiggini, le mani unite, lo sfondo di gradinate rovinate dal vecchio autodromo e una canzone che di lì a qualche anno ci avrebbe rappresentato. Le labbra perfette, precise, incollate. Il mio primo bacio, le uniche labbra che avevo mai toccato con le mie, le uniche labbra che mai ho toccato con le mie. La canzone era Le cose che abbiamo in comune di Daniele Silvestri. Dopo in effetti siamo andati più o meno a tutti i concerti di Daniele Silvestri in zona, anche se in effetti non è la musica che lei ascolta di fatto, ascolta più musica metal o cose del genere. Secondo flash, un paio d'anni più tardi, non ho più il codino alla Baggio, i capelli sono corti, ho gli occhi lucidi, siamo al mare. La prima vacanza tutti insieme, una decina i ragazzi e altrettante le ragazze. Avremmo dovuto essere l'unica coppia, ma da una settimana non lo siamo più. E ancora non ci credo. Una scenata di gelosia, un dito medio, in chiesa e durante la messa, ma vabbè, capita. Insomma, lei non mi parla più. Sua mamma, ci manca poco che non mi prenda a calci quando mi piazzo davanti alla porta di casa a presidiare ingresso e uscita, con le lacrime. E credo i pugni alla porta. Fatto sta che dopo una quindicina di giorni in cui non mi rivolge la parola e io sto per morire, viene al mare, in vacanza. Sono certo che la fine cederà. Non mi può lasciare. E così per una settimana, tutte le mattine, presto, prestissimo nei ricordi, tardissimo sembra a me, mi piazzo sotto la casa delle ragazze, fronte mare, e fischietto. Mi sembra di avere fischiettato Ti amo, la canzone di Umberto Tozzi, per l'intera settimana. Tra le risate delle altre, prima, schiamazzi dei vicini e suppliche di smettere poi. Alla fine, cede. Non ricordo se scende, cosa fa per farmi smettere. Insomma, è disposta a tutto. Si rimette con me. Non mi lascia più. Terzo flash. Primi anni del 2000, anno più, anno meno. Oramai siamo un noi per sempre e da sempre. Le rispettive università sono verso la fine. Ci sposeremo, non so quando, ma è certo. Anche se diceva che non si sarebbe mai sposata. D'altra parte lo diceva a 16 anni, quindi la scuso. Io però non ci ho mai creduto. Siamo ancora d'estate, sessioni di esami conclusi. Mia madre, ormai che ho superato i 20 anni, si è fatta una ragione delle mie vacanze a due da solo con lei. Auto adesso, treno prima. 2 settimane da soli. L'anno prima non è andata benissimo. Ci hanno rubato la macchina di mio padre al secondo giorno, ma che vuoi? Quest'anno ci si riprova. L'Opel Corsa è quella di mia madre. Tenda e vacanza in Spagna. Jennifer dates a man in a 60s cover band. He's the S-Dog, Sean, if you wish. She's 18, he's 31. She's a rich girl, he's the son of a Coca-Cola middleman. Kiss when you listen to brothers in arms. And if there's something wrong with this, they don't see the harm in joining their forces and singing along. Prima sosta sui Pirenei. È uno spettacolo. Montiamo la tenda, giretto tra i boschi. Un ruscello con acqua turchina, incredibile. Mi tuffo, ammetto di avere voluto fare colpo. Si tuffa anche lei. Baci e amore, il mondo è perfetto. Ma ho perso le chiavi della Opel. Non le ritrovo, sono in fondo al fiume. E la copia è nel cruscotto. Rompo il vetro anteriore a sassate dal mio lato perché sono un gentleman, poi lo sistemerò. Ma di lì a un paio di giorni, a Jennifer, vengono fitte ai reni. Calcoli. Rientro di corsa in Italia, 1500 km senza finestrino. 3 soste in diversi ospedali in diverse nazioni e una vacanza indimenticabile. Come l'amo, mentre chinata al lato della strada vomita il suo dolore e poco dopo mi guarda attonita. L'abitacolo è pieno dei fumi del tir che ci precede. Siamo in fila sotto le gallerie della Liguria. Quarto flash. Questa volta la data la ricordo. Marzo 2006, Etiopia. Jennifer ha tagliato i capelli, castani a maschiaccio. Samuele, nostro figlio, neanche 3 anni, biondo come un tedesco e bianco, pallido, è in braccio a lei. Una 30ina di bimbi africani le stanno facendo le trecce. Siamo arrivati da poco. Ancora non sappiamo che quei 3 mesi di pausa, dopo essermi licenziato ed essere partito per il sogno della vacanza dei missionari, non sarà proprio un sogno. In un ospedale troppo triste per essere vero. Troppo dolore e scelte che non siamo pronti a fare. Dopo più o meno 5 anni che io lavoravo in nello studio di progettazione dove lavoro poi anche adesso. Jennifer aveva finito di fare la specialità in pediatria e abbiamo avuto l'occasione di partire per questi mesi che abbiamo trascorso in Etiopia. Mi sono licenziato e siamo andati là con Samuele, che era il bambino piccolo, che adesso è più grande dei tre che abbiamo, e siamo rimasti là per fare lei un'esperienza in ospedale, io in una missione in Etiopia. Quinto flash, 12 maggio 2011. Sto correndo, è diventata una specie di mania. Non sarebbe il caso, ho appena salutato Jennifer, lei è in sala operatoria, calcoli ai reni. Operazioni quasi di routine, ne ha fatte tante mentre nascevano i nostri tre figli. Eppure, mentre corro questa mezz'ora per scaricare la tensione, qui in queste campagne lombarde, lontano un paio d'ore da casa, ho brutti presentimenti. Mi succede a volte, ma questa volta è diverso. Di lì a qualche ora rivedo Jennifer. Sorride, ma non sta bene. La rivedo incosciente poco dopo, intubata. Svengo. Quando 3 mesi dopo la dimettono, di nuovo sorridente, non so che quei giorni in cui i medici mi dicevano che non ce l'avrebbe fatta, in cui dovevo nascondere ai bambini l'assenza della mamma, in cui tutto era precipitato in un vortice ottuso di presagi infausti, quei mesi mi sarebbero rimasti addosso. Ultimo flash, poco fa. Steso su un materassino, musica New Age, lezione di yoga. Sudato, stanchissimo. I pensieri vagano negli ultimi minuti di rilassamento. Jennifer è di fianco a me, occhi chiusi. Penso a questi oltre 20 anni insieme. Penso a qualche mese fa, in cui io ho percepito la mia fragilità e lei se l'è caricata sulle spalle. L'ha portata a fare un giretto a piedi e me l'ha restituita. E a quel punto non pesava più come prima. Penso ai nostri 3 bambini e a come le assomiglino, a come siano in fondo figli di questo amore e di come lo rendano eterno. E questa non è neppure la prima metà della nostra vita insieme, che tra 60 anni non basteranno 2 pagine per raccontarlo. Siatene certi. Sono insieme ovviamente nella foto che ci ha mandato Giulio e li trovate sul nostro sito se avete voglia di vederli. Giulio e Jennifer sono su una... in una cosa che... una cosa è una descrizione perfetta. Sembrano su un montarozzo, sembra dello zolfo quello dietro, è tutto giallo e c'è un po' di fumo. Potrebbe essere un vulcano, una miniera, un'isola. Secondo me sono in Etiopia. Pronto Giulio, buongiorno. Pronto, ciao. Come stai? Bene, bene. Ma bene. C'hai la voce da ragazzino, sembra che state insieme da una vita. Quanti anni hai, me lo ricordi? La tua età direi più o meno, quasi 40 anni, 39. Quasi... Ah, perfetto, proprio sei del 75. 75. Beh, che classe incredibile quella del 75. E di che classe è Jennifer? Non si chiede mai, ma... Anche lei? Anche lei, certo, sto scemo io non ricordarmi, eravate in classe insieme. Esatto. Dove siete in questa foto che ci hai mandato? In realtà siamo in Italia, siamo in Sicilia, sull'isola di Vulcano. Benissimo, perfetto. Non ci ho azzeccato, ci ha azzeccato tutto Bonini. Un'isola, però insomma, quel giallo lì è lo zolfo, giusto? Me lo confermi? Volevo rivendicare che una roba l'avevo beccata. Senti, Giulio, adesso avete 3 figli. Esatto. E Jennifer sta bene. Esattamente cosa è successo, perdonami, durante quell'intervento? Allora, purtroppo è successo una cosa che è risuccessa poche settimane fa, quindi insomma, è un altro flash che lo aggiungiamo. Lei ha un problema, diciamo, di salute che ogni tanto si ripete, adesso speriamo che non si ripeta più, e quindi è che ci ascolto adesso. Ma è che viene fuori, e quindi le facciamo gli auguri ovviamente, viva Jennifer, ma è che viene fuori a causa degli interventi o è una cosa invece che... Ma diciamo che è un problema renale che ogni tanto si ripresenta, che è sommato a un sacco di altre cose ogni tanto. Adesso sta bene però? Sta un po' meglio. Ok, perfetto. Giulio, invece, innanzitutto, questa è una storia magnifica perché sembra una storia semplice, cioè sembra una storia, no, che più o meno tutti immaginiamo, e siamo un po' combattuti tra il vabbè però così è troppo facile e vabbè però così è una figata, cioè incontri uno e quello di fatto diventa lo specchio per conoscere l'altro genere, no? Cioè diventa la persona attraverso cui conosci le donne e tu la persona attraverso cui conosci l'uomo, no? in generale. Io la trovo comunque una storia magnifica e ho parlato proprio di quel piccolo film che ho visto e che abbiamo appena postato su Facebook, proprio perché sembra riassumerlo nelle tre ore di una serata, invece voi ci avete vissuto 20 anni. In questi 20 anni sono successe un sacco di cose, però io vorrei andare in Africa, nel senso che mi spieghi ancora un po' meglio come ci siete arrivati ad andare là, perché e qual era l'intenzione? Ma in realtà ci siamo finiti dopo che Jennifer ha finito la specialità, lei è una pediatra, quindi ha deciso sostanzialmente di non rimanere in ospedale e prima di qualunque altra scelta lavorativa abbiamo detto perché no, proviamo a vedere che cosa succede andando in un paese come l'Etiopia. L'Etiopia in realtà è saltata fuori un po' per caso, a Modena abbiamo trovato un'associazione, si chiama Modena per gli altri, che era in contatto con l'Etiopia. In Etiopia c'era un ospedale in cui lei poteva andare a lavorare, un ospedale okay. gestito dal QAM, e quindi molto semplicemente nel giro di un paio di mesi, con un po' di discussioni magari in famiglia e a casa, abbiamo deciso di provare a vedere che cosa succedeva facendo questa esperienza di... E siete rimasti là quanto alla fine? Siamo rimasti là 3 mesi più o meno, 3 mesi qualcosa. È stata tosta? Sì, molto. In realtà anche lì forse più per Jennifer, che era in ospedale, quindi dentro una situazione in cui forse difficilmente si arriva preparati, certo. che per me che invece ero in una missione molto più allegra, con le fiorine, i bambini e le treccine. L'Opel Corsa non c'è più, immagino. L'Opel Corsa purtroppo non c'è più. Però ce l'immaginiamo così, con un vetro sfondato che corre lungo le strade d'Italia per tornare a casa. Giulio, io ti ringrazio ancora per la storia che a modo suo secondo me è esemplare, a modo vostro, in bocca al lupo ovviamente a Jennifer. Perché Jennifer? Perché il nome? Jennifer perché sua mamma è olandese. Ah, perfetto. Immaginavo qualche personaggio dello spettacolo che come Jennifer infatti lei non piace il nome invece. Esatto. Saluti a Jennifer e grazie ancora, ciao Giulio, ciao ciao, a presto. Insomma, alla fine della storia di Giulio e di Jennifer ho capito che, primo, è vero quando si dice che le difficoltà uniscono, secondo, aveva ragione chi mi diceva che le coliche renali erano più dolorose di un parto, e lo so perché l'ho provato. Terzo, Jennifer è veramente una tipa tosta. Quarto, le storie spesso si ricordano per flash improvvisi. E quinto, alla domanda di che cosa parliamo quando parliamo d'amore, la risposta secondo me è: parliamo un po' di una storia come questa. 349-238-6666, di tutti i messaggi che arrivano c'è sostanzialmente una tematica, che la dico agli uomini perché sono arrivate delle donne che lo scrivono, ed è il motivo per cui guardo mio compagno, mio marito e dico ah ecco perché sto con lui, ecco perché lo amo, mi fa ridere. Questo più o meno è il tono dei messaggi che sono arrivati. È arrivato sul profilo Twitter, che è Voi Siete Qui R24, il tweet che dice l'amo a tal punto da scendere adesso in farmacia mentre sta iniziando la puntata di oggi, e si inventa un hashtag che è addirittura santa pazienza. Io vi ricordo che noi siamo in onda anche il sabato con i diari di Voi Siete Qui, e quindi vi invito a inviarci dei diari al nostro indirizzo mail voi siete qui @radio24.it, possibilmente trascritti con le vostre manine su un formato di Word. Grazie a Paolino Corleoni, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Miriam Lucchetti, ovviamente grazie soprattutto a Giulia e a Jennifer, perché la storia di oggi era la loro, e anche loro entrambi sono un punto rosso su una mappa. Luca, vivo da 10 anni a Firenze, la storia di domani è la mia, parla di me, del mio cane Lars e di come è difficile dire addio. Questa è la mia storia ed io sono qui.